Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, e molti dei nostri programmi si stanno trasferendo proprio da oggi al Salone del Libro di Torino. Noi arriviamo domani, mi raccomando, vi aspetto, e ci sarà anche domani il nostro sommario. Andiamo con quello di oggi. Dottore, mi manca la terra sotto i piedi. Alzheimer, parte la sperimentazione del vaccino. Dentisti in piazza al servizio della prevenzione. Ci sono persone che quando si alzano, camminano, si muovono, si sentono instabili e raccontano di provare, l'avete sicuramente provato anche voi, quella sensazione che si avverte quando si scende dalla barca, il mal di terra. Altri invece descrivono il loro disagio, il loro sbandamento come un senso di pienezza, la testa piena, il senso di ovattamento, altri ancora proprio con una particolare facilità di inciampare. Tante possono essere le cause di questi disturbi, ne parliamo oggi insieme al professor Giorgio Guidetti, che è tornato a trovarci. Prof, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sai che capita un po' anche a me ogni tanto? Vabbè, sì. Quindi sarò particolarmente attenta. Responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare dell'azienda USL di Modena. Allora, professore, parliamo quindi di questi che possiamo descrivere come disturbi dell'equilibrio, che però non sono tutti uguali. No, il problema è proprio quello, che si è scelta una specializzazione difficile per indicare tutto. Io direi, proviamo intanto a distinguere tra instabilità e vertigini, che mi sembrano due grandi famiglie che spesso noi mescoliamo, facciamo sposare. Giustissimo. La prima da distinguere è la cosiddetta grande vertigine, cioè la vera vertigine, che è praticamente corrisponde a quella sensazione veramente violente, brutale, che tutte le cose intorno a noi ruotino come in una centrifuga. Quella è la vera vertigine. Purtroppo appunto si usa la stessa parola spesso per indicare, non so, la sensazione di malessere quando sei in alto e guardi verso il basso da un balcone, per esempio. Questo non sono vertigini. E l'instabilità è un altro grande capitolo, è tutta quella sensazione appunto di non riuscire a controllare proprio bene il proprio corpo nei confronti di quello che si vorrebbe fare. Vorrei camminare ma mi sento sbandare, vorrei andare da qua a là ma mi sento insicuro, sono incerto, non ho una camminata spedita, oppure stando in piedi ho la sensazione di oscillare. Questo, tutto questo è quello che gli inglesi chiamano un balance disorder, cioè una sensazione generale di difficoltà nel mantenere la stazione retta e l'equilibrio. È un problema che interessa le persone anziane, ma non solo. Ecco, questo lo voglio subito sottolineare, perché noi facciamo conto e lo mettiamo in conto che con l'età magari i nostri genitori diventano un pochino più incerti, no, nel passo. In realtà questo non è un problema solo degli anni, professor Guidetti. No, assolutamente, anzi purtroppo, siccome sono tantissime le cause in grado di provocarlo, appartiene un po' a tutta l'età, compresi i bambini. Compresi i bambini. Compresi, quindi bambini. Mamme, all'ascolto attente, il nostro numero verde come sempre è 824 0024. Raccontateci come vi sentite. Anche quando è stata l'ultima volta che avete detto ho visto girarmi tutto intorno, oppure avete avuto la sensazione di alzarvi e la testa vi girava, o ancora alzandovi, come scriveva il professor Guidetti, avete un po' sentito come se la terra vi mancasse sotto il piede, avete avuto paura di inciampare, insomma vi sentivate strani, come si dice. 349 238 6666 per mandarci un messaggio. Il microscopio. Parte in questi giorni la sperimentazione di un vaccino contro l'Alzheimer. Noi ne parliamo oggi insieme al professor Elio Scarpini, che è responsabile dell'unità valutativa Alzheimer del Policlinico Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. La notizia è molto interessante, rischia di accendere anche molte speranze, allora io le chiederei, diamo un significato preciso ad ogni termine. Parliamo di vaccino. Che cosa si intende per vaccino? In questo caso si intende una immunizzazione attiva, cioè forniamo quella proteina patologica che è responsabile della malattia in modo che si sviluppino degli anticorpi in grado di favorire l'eliminazione di questa proteina dal cervello. Se lei dovesse fare un paragone con un altro tipo di vaccino per un'altra malattia, a che cosa assomiglia questo vaccino contro l'Alzheimer? Ma è un concetto totalmente nuovo, perché di solito noi vacciniamo verso patologie infettive, ad esempio virali. In questo caso dobbiamo cercare di rimuovere una proteina anomala che è presente nel cervello. Professore, ma il vaccino contro l'Alzheimer che cosa farà? Curerà l'Alzheimer? Lo eviterà? Cosa dobbiamo aspettarci? Noi abbiamo delle evidenze nell'animale in cui questa immunizzazione attiva è in grado di rimuovere la proteina patologica e quindi teoricamente dovrebbe dare un miglioramento. Nell'uomo non sappiamo ancora quale sarà il risultato. In passato purtroppo ci sono stati degli episodi spiacevoli perché si sono verificati degli effetti collaterali anche gravi e quindi l'obiettivo principale di questa sperimentazione è verificare che sia una procedura sicura e ben tollerata. Professore, infatti parliamo di sperimentazione. Andiamo bene a definire questo termine. Quindi sperimentazione vuol dire che i tempi sono ancora molto lunghi, si devono superare una serie di procedure. Professore. Questa sperimentazione che inizia in questi giorni durerà 90 settimane. E quindi i primi risultati non si vedranno se non dopo un paio d'anni. In più è una sperimentazione rivolta soprattutto a valutare l'efficacia e la tollerabilità in questa fase, utilizzando per valutare l'efficacia dei parametri indiretti come la produzione di anticorpi da parte dei soggetti. Professore, se tutto andasse per il verso giusto, finite queste 90 settimane di sperimentazione, come si procederà? Quali saranno i candidati eventuali per questo vaccino? La sperimentazione è di fase cosiddetta 2, quindi su un numero abbastanza ristretto di pazienti. La fase successiva sarà quella di allargare la sperimentazione su numeri più ampi, alcune centinaia di pazienti, soprattutto per verificare l'effettiva efficacia. Quindi i tempi penso che siano nell'ordine di alcuni anni. L'obiettivo della terapia è evitare che si formino quelle placche nel cervello che sono la causa della malattia. Se le placche sono già presenti e la malattia è avanzata, la possibilità di una regressione è molto modesta. Quindi, quanto più sarà precoce l'intervento, in questo caso la vaccinazione, quanto maggiori saranno le possibilità di fermare la progressione della malattia. Quindi sarà sempre, mettiamo sempre il condizionale, un vaccino rivolto a delle persone che hanno già la malattia e vengono diagnosticate in fase precoce, quindi il vaccino dovrebbe in qualche modo arrestare l'evoluzione della malattia. Certamente, e la ricerca oggi come oggi è focalizzata sull'identificare dei cosiddetti marcatori biologici che siano in grado di identificare quei soggetti che svilupperanno la malattia e trattarli il prima possibile. Professore, allora attendiamo i tempi, lo sottolineiamo, questo mi sembra un dato molto importante per evitare di accendere speranze. La sperimentazione in fase 2 ancora lunga, 90 settimane, succederà poi, sarà seguita dalla sperimentazione di fase 1 più allargata, ma bisogna comunque sempre valutare la sicurezza oltre che l'efficacia di questo vaccino. Intanto la ricerca va avanti, questa è una notizia che voglio dare ai miei amici da casa. Professor Scarpini, io la ringrazio, mi sembra che abbiamo detto tutto, giusto? Certamente. Grazie. Grazie. Buon grazie lavoro. A lei. Grazie, buongiorno. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci del tema del giorno. Oggi parliamo di disturbi dell'equilibrio. Nello specifico parliamo di instabilità, insieme al professor Guidetti. Professore, abbiamo detto che vertigine e instabilità sono due cose diverse. Però io vorrei insieme a lei fare quello il gioco delle differenze. Quali elementi distinguerebbe? Proviamo un po' insieme. Una è sicuramente la durata, o sbaglio? Io metterei durata. La durata sicuramente. Okay. Intanto la cosa fondamentale appunto è la sensazione che il mondo giri, che è discriminante. Sì. Se c'è quella, siamo sicuri che per esempio c'è di mezzo una malattia dell'orecchio, 90% di probabilità sì. che sia così. Quindi questo è già discriminante sulle cause. Sì. Poi la durata. La durata dell'instabilità di solito è molto maggiore che delle vere e proprie vertigini. Sì. Quindi quando uno avverte a lungo una sensazione di instabilità, significa che le malattie possono essere tante, che hanno tutte le caratteristiche di una cronicità, quindi bisogna mettersi a cercare in direzioni diverse che quando si sente soltanto per qualche secondo vedere tutto il mondo girare. Certo. Altri poi, aspetti? Ci sono dei momenti magari della giornata in cui è più facile essere instabile o sì. avere le vertigini? Sì. Beh, ci buttiamo anche? Possono essere scatenate, di solito le vertigini sono continuative, sì. cioè uno magari ha un certo movimento che glielo scatena, basta che lo faccia di giorno, di notte, pomeriggio, sera, è uguale, sì. mentre l'instabilità è un po' una sensazione non tanto accessuale, insomma, quanto piuttosto continuativa, senza degli elementi scatenanti veri e propri, magari ecco, qualcuno può aumentarla, instabilità nei periodi vicini alle mestruazioni, ai cicli delle donne, oppure può avvertirlo nei periodi di maggiore stress, può sì. avvertirlo nei momenti, non so, famosi colpi d'aria, allora lì ci si orienta verso appunto patologie muscolari, articolari. Quindi abbiamo già sottolineato alcune differenze che sono sicuramente la sensazione che proviamo, la durata, anche alcuni periodi della giornata. Io andrei nella provincia di Venezia, abbiamo Flamur. Flamur, buongiorno. Buongiorno, Flamur, sì, Flamur, vede, mi sono... Complimenti per la trasmissione, buongiorno anche ai suoi ospiti. Niente, io chiamo, per quanto riguarda questo, diciamo, instabilità o vertigini, come chiamarla. Sì. Mi è già successo un paio di volte, a distanza di tempo di circa un anno, che al lavoro mi trovavo, salivo sul mezzo e mi trovavo che andavo... diciamo scatti vuoti, ecco, non mi trovavo diciamo con l'ambiente, in quel senso di cadere da un momento all'altro e sì. Vedere un attimino così instabile. Ecco, come se le gambe le cedessero? Sì, come se andassi per terra, diciamo, come se andassi al vuoto, certo. In quel senso là. Professor Guidetti, questa è una vertigine o un'instabilità? No, un'instabilità. Questa è un'instabilità, chiaramente. Abbiamo capito, allora, mi sono fatto un piccolo autotest, l'ho fatto anche ai miei amici da casa. Instabilità. In questi casi, purtroppo, ecco, per esempio, il soggetto mi pare abbastanza giovane, insomma, di età media comunque, che avverte questi sintomi, se non ha avuto altri segni neurologici importanti, cioè per dire, non so, accessi di mal di testa, difficoltà a muovere una gamba, dei formicoli agli arti, ecco, se non ha avuto cose di questo genere, la prima cosa che deve andare a verificare è che il cuore funzioni bene, che la pressione sia a posto, che non ci siano delle sorprese a livello di circolazione, insomma, che sono tra le cause poi più frequenti, tipico per dire i soggetti che hanno la pressione bassa, sì. che ne fa certi movimenti, si sentono storditi, per certo. esempio, o tipico anche quelli che hanno gli attacchi di pressione alta e all'improvviso se ne accorgono perché sentono magari l'orecchio che fischia, la testa che comincia a essere un po', come si dice a modo, intronata. No? Intronata, si dice anche di qua. Flamur, si dice anche nella provincia di Venezia? Sì, sì, sì. Allora, no, stavo dicendo, se potevo, certo. visto che il professore ha toccato dei temi che... Ahimè, io ho avuto un paio di incidenti e uno mi ha lasciato, diciamo, come segno un'ernietta alla cervicale che dopo un periodo brutto che Flamur, io dovrei venire alla domanda, non per l'altro, perché abbiamo anche Rino da Napoli, Mercati. Se lei vuole fare una domanda precisa, il professor Guidetti si è già orientato un po' verso la diagnosi e gli ha dato alcuni consigli. Ho avuto questi traumi qua. È consigliabile fare una visita specialistica da... punto di domanda, professor Guidetti, da chi lo mandiamo? Domanda giustissima. Allora, teoricamente la persona che dovrebbe occuparsi sempre di qualsiasi disturbo dell'equilibrio è quello che si chiama il vestibolo, cioè un esperto di malattie appunto dell'equilibrio e soprattutto sì. di malattie dell'orecchio. Sì. Perché la prima cosa da escludere è sempre che ci sia stata una malattia dell'orecchio di mezzo, che può sì. decorrere in modo subdolo e poi dopo avere dei fastidi maggiori col tempo. Sì. nel caso specifico suo, con un problema anche di trauma al collo, mi pare di aver capito, sì, è utilissima anche una valutazione fisiatrica, cioè di qualcuno che sia in grado di valutare quanto questi traumi abbiano lasciato di tensioni muscolari, di disordine delle articolazioni, certo, sono in grado di dare instabilità in certi momenti, certamente. Ecco, il vestibologo, figura ai più sconosciuta, molti poi ci scriveranno dove troviamo, chi sono, sono gli esperti dell'equilibrio e si occupano proprio di quella, in particolare di quella centralina che è posta dentro il nostro orecchio, che governa il nostro equilibrio. C'è un elenco dettagliato e aggiornato su progettovertigo.com. Adesso il professor Guidetti rimane con noi, anche Rino, che saluto da Napoli. Rino, buongiorno. Buongiorno Rino, io la porto con me sui mercati e poi a sentire anche il meteo, sperando che ci siano buone notizie. Voilà, siamo tornati. Rino, eccoci, ci racconti di lei. Dunque, allora si tratta di questo: mi voglio dipingere come un tipo che ha dei problemi di emotività di fondo, quindi per esempio quando mi faccio un prelievo di sangue mi devo stendere altrimenti svengo, però ho condotto sempre una vita normale senza grossi problemi fino ai miei 62 anni, sì. Sono un ex fumatore, di un grosso fumatore. Sì, e ce l'ha fatta a smettere, Rino, bravissimo. Sì, anche perché dico che la forza di volontà è forse una delle migliori fonti che abbiamo noi per poter comandare al nostro organismo, quindi ci sono riuscito anche abbastanza facilmente da pochi mesi. Bravissimo, tenga poi, duro. Sì, devo dire anche questo, che insieme a questa forma di emotività di cui ho parlato, sì, c'è stato un periodo della mia vita in cui ci sono stati una catena di lutti in famiglia, sì, quindi... che mi hanno portato, appena passato il periodo critico, un pochino di ansia, sì, e mi è insorto un problema molto disdicevole, devo dire, cioè un acufene, sì, che non riesco a debellare in nessun modo, che alle volte mi si accompagna pure a degli stati, diciamo, un pochino di instabilità, sbandamento, sbandamento, sì, eccetera. È il professor Guidetti che vuole farci dividere le vertigini dall'instabilità, è preciso il professor Guidetti. Professor Guidetti, senta bene, Rino da Napoli, emotivo, un periodo difficile, ecco, ci sono delle situazioni, delle condizioni della nostra vita che possono slatentizzare dei problemi, farli nascere o acuirli, l'ansia può essere una di queste? Certamente, purtroppo è così, cioè molte volte gli elementi di stress nella vita, l'ansia, i momenti di depressione, gli sbalzi di emotività facilitano il, come dire, il riaprirsi di vecchie ferite. Mettiamola così. E, però c'è una cosa importante in quello che ha detto prima Rino. Sì, esatto, cioè ha parlato a un certo punto di una acufene che insorge. Ecco, la acufene che insorge è un campanello d'allarme su una malattia dell'orecchio. Questo sicuro, quindi vuol dire che se lui ha avvertito questo sintomo è opportuno che esamini con attenzione il rischio che ci sia una patologia all'orecchio di base, proprio di quelle magari vecchie, come dicevamo prima, che non hanno lasciato segni importanti o significativi, magari al momento, pure lui non se li ricorda nemmeno, ma possono condizionare il suo equilibrio. Quindi per il suo, diciamo, benessere, per la sua diagnosi conviene sicuramente rivolgersi in quella direzione per escludere alcune cose. Senta, professore, dato che abbiamo dato un'indicazione, lei ha dato un'indicazione precisa, Rino, attenzione, un acufene che insorge all'improvviso è un disturbo che va assolutamente riferito. Stiamo sulle nostre instabilità e sulle vertigini. Quali sono, per l'una e per l'altra condizione, i campanelli d'allarme, quelli che ci devono far capire che è arrivato il momento di parlarne e non di dire vabbè, sarò un po' stanca, sarò un po' ansiosa, ho dormito male, forse la pressione. Allora, iniziamo dall'instabilità. Quando ci sono dei segnali che mi fanno capire che potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio che un disturbo passeggero? Ma se la cosa appunto si presenta e si mantiene nel tempo, certamente non bisogna scherzarci, cioè bisogna mettersi ad approfondire il discorso. Sono tutti campanelli d'allarme specifici, appunto, no? Sì. Che purtroppo appartengono a tantissime diverse patologie possibili, quindi parlarne col medico, andare a vedere quelli che si chiamano i fattori di rischio. Prima l'esempio, il paziente riferiva una serie di traumi, è ovvio che se ha avuto una serie di traumi al collo, diciamo che la prima cosa è andare a verificare se questi traumi hanno lasciato dei segni importanti, certo, a livello delle strutture articolari e ossee del collo, sufficienti a spiegare alcuni sintomi. Poi c'è la pressione, alto o bassa, come lei citava. I fattori di rischio vanno indagati per vedere se hanno un rapporto con quello che è il sintomo attuale. Mm. Vale sempre assolutamente la pena di farlo, basta anche solo quattro chiacchiere con un medico esperto, con un medico di famiglia che lo conosce, ecco, e può orientarsi verso le cose da escludere, insomma. Per quanto riguarda invece le vertigini, valgono le stesse raccomandazioni? Si vanno un po' a riguardare i fattori di rischio, oppure lì ci sono dei dettagli che non vanno trascurati? Ma sicuramente i disturbi dell'udito associati non vanno trascurati, tipo sensazione d'orecchio pieno, fischi alle orecchie come diceva il paziente prima, oppure proprio se c'è una vertigine violenta col mondo che gira non bisogna mai sottovalutarla. Tante volte si sente dire ma non ti preoccupare, poi passa, non è proprio così banale la cosa. Può passare il sintomo ma non la malattia, e poi magari riappare più avanti, bisogna sempre stare molto attenti a questi segni, sono campanelli d'allarme che il nostro cervello ci manda. Dico non bisogna allarmarci ma basta parlarne. Oscar ci chiede la differenza fra la stanza che gira intorno a noi e noi che giriamo intorno alla stanza, ma attenzione stando a letto. Molte persone, professore, riferiscono questi disturbi quando sono sdraiati, perché? È vero, è una malattia estremamente diffusa, anzi un sintomo, scusi, estremamente diffuso, e appartiene di solito a malattie dell'orecchio, fra l'altro malattie dell'orecchio abbastanza facili da risolvere. Si tratta quasi sempre di anomalie di funzionamento dell'orecchio legate alla presenza di, chiamiamoli microcalcoli all'interno dell'orecchio, che in particolari posizioni danno dei falsi contatti generando questa vertigine. Dico importante in questo caso fare la diagnosi precoce, perché la terapia è banale, si basa quasi sempre su dei semplici movimenti che si chiamano movimenti liberatori, che vengono effettuati da mani esperte per eliminare questi microcalcoli e abbassare il rischio di cronicizzazione della malattia. E quindi questo è valido se la stanza gira intorno a noi, ma se, come ci scrive Oscar, noi giriamo intorno alla stanza? Dunque, anche se noi giriamo intorno alla stanza, è una, diciamo, sottomarca della patologia precedente, sì, quindi meno aggressiva, meno violenta, ma comunque di quella famiglia lì, da distinguere nettamente. Quando c'è la sensazione proprio di ruotare, sì, come se fossimo noi su una giostra e ci sentissimo ruotare, oppure se guardassimo dalla giostra intorno e vedessimo le cose ballare, quando c'è questa sensazione l'orecchio c'è di mezzo nel 90%. C'è lo zampino dell'orecchio. Francesca da Latina, buongiorno. Scusi Francesco, ho letto male, perché sto mi scusi. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E niente, io ho un problema, praticamente quando sto in macchina, sto tipo un'oretta in macchina, quando esco dalla macchina mi sento come se devo cadere, devo assolutamente appoggiarmi alla macchina, stare quei 2-3 minuti e poi... Si ripiglia. Poi passa tutto, sì. Ma prima era una volta ogni tanto, è un periodo invece che me lo fa abbastanza spesso, volevo sapere se dipendeva dal problema delle vertigini. Certo, professor Guidetti. Beh, detto così assomiglia molto a una patologia particolare che viene definita mal di terra, che è un po' la sensazione che si prova in nave dopo aver fatto un lungo periodo di nave, si scende e si ha mal di terra, non c'è più mal di mare. No? Certo. Sta quasi sempre a indicare una difficoltà da parte del cervello ad abituarsi alle nuove condizioni di stimolazione, cioè praticamente alla mancanza di accelerazioni. Sì. Può essere una banalità totale, nel senso che come per il mal di mare, no? Ci sono persone che ne soffrono, senza che per questo si possa dire che hanno malattie gravi, ma può essere anche il primo segno appunto di un disturbo della cosiddetta zona otolitica dell'orecchio, cioè di quella parte dell'orecchio dove ci sono i sensori per la forza di gravità e per le accelerazioni. E in questo caso, no, sai perché Francesco ci ha detto, prima mi veniva una volta ogni tanto, adesso più di frequente. Ed è lì il problema. Ed è lì. Per cui Francesco. Quindi se fosse abituale per lui sarebbe meno preoccupante. Ma il fatto che aumentino queste piccole crisi vuol dire che probabilmente c'è un meccanismo che non sta funzionando bene. Ma come fa a vederlo, Francesco? Quali sono gli esami? Dal famoso vestibologo. Dal famoso vestibologo, che cosa fa per andare a vedere lì in fondo questi sensori? Si fanno dei test mirati alla ricerca di quei segni clinici che identificano il disturbo dell'orecchio, si fanno dei test appositi. Ma ci mettete delle cose dentro l'orecchio? Lei non mi vuole descrivere il test, come mai? È sufficiente fare dei test clinici a letto, quindi senza strumenti per andare a stimolare violentemente, con però l'uso di opportuni macchinari che sono praticamente, diciamo, delle maschere subacquee dotate di un sistema di illuminazione infrarosso che consente di studiare la risposta agli stimoli del labirinto al buio completo. Sono visite rapide, prive di ogni qualsivoglia rischio. Non fanno male, non no, sono lunghe, basta trovare il vestibologo. Sì, è lì. Francesco, mi raccomando, ci faccia sapere. Abbiamo tempo di fare un saltino a Imperia prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, così io posso salutare Cristiano, che è intervenuto all'800 24 0024. Cristiano, eccomi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Bene, Cristiano, ci racconti di lei. Sì, brevemente. Allora, il mio problema risale a un po' di tempo fa, quando una mattina mi sono svegliato e in posizione sdraiata avevo dei fortissimi giramenti di testa, giramenti che passavano immediatamente alzandomi o scrollando leggermente il capo. Sì. A questi giramenti di testa era associata una fortissima nausea. Io ho pensato che questi sintomi potessero essere inquadrati in una sintomatologia del labirinto, quindi una labirintite, sì. Cosa che però non ci sta per la durata, perché il tutto si è risolto in 2 o 3 giorni, cioè per 2 o 3 mattine mi è successo questo e poi è sparito. Premetto che i giorni antecedenti non sono andato in piscina, non ho fatto niente di particolare e non sono un soggetto che soffra di pressione alta. Quello che mi è stato dato il giorno successivo è mi pare un antiemetico e basta, ma la cosa si è risolta da sola. Mi piacerebbe sapere se è possibile dare un nome a quello che è successo, a quello che mi è successo. Allora, Cristiano, professor Guidetti, quando si parla di relazione tra medico e paziente, Cristiano è il paziente ideale. Le ha raccontato tutto. Professor Guidetti, è pronto? È prontissimo. Allora, cosa può aver avuto Cristiano? Allora, Cristiano è stato molto molto attento a descrivere e anche a quello che abbiamo detto. Però ha preso proprio uno di quei casi dove il discorso si fa un po' più complicato per quanto riguarda il ragionamento della durata dei sintomi. Sì. Allora, il suo caso è un caso tipico di vertigine parossistica da posizionamento e fa riferimento con certezza quasi assoluta, diciamo, chiaro che i malati vanno visitati per certo. fare diagnosi, però insomma, a quelle forme che dicevamo prima, di formazione di microcalcoli nell'orecchio. E si verificano di solito quando siamo sdraiati? Esattamente. Allora, il problema qual è? Che lui giustamente dice, e anche qualcuno che l'ha visitato ha fatto lo stesso pensiero, ma tanto poi passa. Ecco, il problema è che non è vero, cioè passa si fa per dire, ma ha il 70% di rischio che gli ricapiti. Questo non allora, perché lei gufa, ma perché no. ci sono. perché no. le Allora, quello che deve fare la prossima volta, appena ce l'ha, sì. è di rivolgersi a un centro specializzato per il trattamento di questa patologia, per poterle fare le cosiddette manovre liberatorie e abbassare di moltissimo il rischio, andiamo dal 70 al 4-10% di rischio, quindi c'è una bella diversità. Dovesse ricapitare, la prima cosa da fare quindi è quella. Ecco, perché chi la prova la riaspetti, questo è un po' il messaggio. È un po' così, tant'è vero che all'inizio l'avevano chiamata vertigine parossistica benigna, no? Perché tendeva ad andare via apparentemente da sole, poi invece hanno dovuto cambiare idea e adesso vi ha fregato un po'. E la parola benigna l'hanno tolta. Ecco, benigna via. E noi andiamo da Elisabetta, da Roma. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno, senta, io vorrei fare una domanda al professor Guidetti. Praticamente il mio problema è questo, sono 11 anni che ho, è un acufene strano, è un battito, io sento un battito nell'orecchio sinistro. Sì. Con degli scrocchi sul viso e a seconda della posizione sia del collo ma anche semplicemente lavando i piatti facendo instabilità, proprio un senso di stabilità. Certo. Professore, qua si intrecciano diversi sintomi. Sì, perché è un classico esempio di come il mondo non sia banale. Preferiremo allora, una banalità più piacevole, una non banalità più piacevole, volevo dire. Comunque, allora, va bene. La fregatura in questi termini. Quello che lei sta dicendo appartiene a tantissimi, tanto per cambiare, a tantissimi diciamo tipi di patologia. Sì. Una di quelle, se non ha avuto dei disturbi uditivi associati importanti, tipo calo dell'udito, sì, una delle prime cose che deve andare a escludere è di avere una masticazione sbagliata, che possa comportare una tensione muscolare, certo, una tendenza anche della tuba di Eustachio, che è il canale tra naso e orecchio, a chiudersi, e a dare appunto quei sintomi che lei ha raccontato. Che sono un po' gli scrosci e poi questo senso di instabilità. Sì. Allora, ricordiamo ancora, prima di salutarci, professor Guidetti, che attenzione, se insieme all'acufene, insieme a questi disturbi, sentite, avete un calo dell'udito, questo è un campanello d'allarme che bisogna ascoltare, udito o non udito. Giusto, professore? Altri aspetti li abbiamo detti, mi sembra, tutti. Ma è vero? Ne abbiamo detti tanti. Ne abbiamo dette tanti. Lei tornerà, professor Guidetti? Dopo tutti mi chiamate, è sempre un piacere. Magnifico. Allora, alla prossima, professor Guidetti. Grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Noi invece ci colleghiamo con il dottor Roberto Caglioni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottore, presidente dell'ANDI, ci sono delle buone notizie per i nostri amici, perché in occasione della quarta edizione dell'Oral Cancer Day, sabato 15 maggio, abbiamo i dentisti in piazza a nostra disposizione. Sì, è la quarta iniziativa che l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani promuove per la prevenzione del cancro orale e lo fa non solamente nei propri studi, ma scendendo nelle piazze con dei gazebo per intercettare i pazienti e sensibilizzarli rispetto a questa grave forma di patologia che è in aumento. Una patologia particolarmente insidiosa, perché naturalmente va a toccare e ledere dei tessuti particolarmente ricchi di vasi sanguigni, di tessuto linfonodale e quindi quando si manifesta in forma avanzata va a ledere quelli che sono i tessuti di relazione, la lingua, le guance e quindi è molto invalidante soprattutto per quanto riguarda l'aspetto delle relazioni con la gente. Senta, quindi, dottore, mi scusi, noi stiamo parlando di lesioni che possono essere presenti nelle pareti delle guance oppure sulle gengive o sulla lingua. È questo che voi ricercherete sabato durante queste visite? Noi spiegheremo e daremo un DVD dove poter fare un'autovalutazione domiciliare, che è già un primo atteggiamento per andare a fare una verifica, che laddove venga confermata la presenza di un qualcosa che non va, deve portare il paziente, il cittadino, a comporre il numero verde o comunque recarsi dal proprio dentista per far fare un accertamento più approfondito. Ecco, senta, sono 75 piazze italiane in cui è possibile incontrare il dentista, un dentista per amico. Daremo poi il numero verde, ma lei ha parlato di un CD. Mi dia un'indicazione con cui possiamo salutarci oggi, e in modo che noi, andando, quando ci laviamo i denti adesso dopo pranzo, possiamo guardarci allo specchio e ricercare che cosa, dottore? Lesioni di qualsiasi genere, formazioni papillariformi, cioè cosa vuol dire? Dei pallini? Delle escrescenze, delle ulcere, che siano sanguinanti o meno, no. Anche le più, quelle che possono sembrare le più innocenti e innocue. Innocenti, tenga conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché poi c'è la tendenza all'automedicazione, dice che sostanzialmente se dopo 15 giorni di sciacqui ripetuti, che in genere è il consiglio che si dà, la lesione non rientra, bisogna immediatamente farsi controllare. Allora, grazie. Limitare il fumo e l'abuso di alcol, che in sinergia moltiplicano i fattori di predisposizione a questo tipo di patologia. Allora, grazie dottor Caglioni. C'è anche un numero verde, 800 91 1202, dentisti in piazza. Grazie dottor Caglioni, e io grazie mi colleghi. collego, grazie a lei, con il dottor Franco Confalonieri, che domani sarà con me a Torino. Dottor Confalonieri, grande, eh? Buongiorno, ben ritrovati tutti. Buongiorno, ma domani, allora, puntatona dal Salone di Torino e poi soprattutto col dottor Confalonieri in carne e ossa. Ma noi invitiamo i nostri ascoltatori a venirci a trovare, a sedersi davanti a noi. Abbiamo un bellissimo palco, comode poltroncine, perché dottor Confalonieri mandi un appello, ritorneranno più felici e più sereni e più in forma. Senz'altro, domani li aspettiamo tutti, in quanto in occasione della trasmissione dal Salone di Torino valuteremo i nostri ascoltatori, oltre a conoscerli, vedremo un po' come sono fatti, se sono un po' grassi, se sono troppo magri, come funziona il loro cuore, com'è il loro battito cardiaco, e li manderemo a casa con dei consigli che speriamo siano preziosi. Quindi diventa interattiva domani la trasmissione, potranno conoscerci, parlare con noi e anche essere misurati in modo semplice ma molto preciso, per allenarsi al benessere. Grazie dottor Confalonieri, l'aspetto domani a Torino. Grazie a voi, a domani. Padiglione 2, vicino alla Sala Blu, ci siamo, vi aspetto.